Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo in Cile questa sera per incontrare il team Onda Solare che tra pochi giorni sarà impegnato in una competizione durissima, la Carrera Solar Atacama, 2300 km da percorrere attraverso il deserto più arido del mondo probabilmente a bordo di veicoli alimentati esclusivamente energia solare. Unico team italiano, Onda Solare è formato da studenti, da ricercatori dell'Università di Modena, di Bologna e da studenti, dicevo, dell'Istituto Tecnico Ferrari di Maranello. Tutti volontari che insieme hanno progettato Emilia 3, un veicolo elettrico alimentato appunto da pannelli fotovoltaici. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite che è Matteo Carpanelli, a un passo diciamo dalla laurea in ingegneria meccanica all'Università di Modena, ma già progettista insieme ad altri naturalmente di Emilia 3. Buonasera Carpanelli. Buonasera Melis. Allora, ci dica subito allora qualcosa in più di questa competizione, io ho giusto detto gli essenziali. La gara partirà il 21 di aprile a Iquique, sempre in Cile naturalmente, e comprenderà il percorrimento di 2300 km solo ed esclusivamente attraverso l'energia del sole. Naturalmente abbiamo anche una batteria che ci permette di compensare gli squilibri dell'esposizione solare. La gara è articolata in due categorie, Hybrid ed Evolution. Noi siamo nella categoria Evolution assieme ad altri sei squadre dell'India, Bolivia, Venezuela e Cile, e ci saranno 14 concorrenti invece nella categoria Hybrid che percorreranno un percorso diverso. Ok, quindi sono due categorie, due percorsi diversi. Qual è dei due il più impegnativo? Immagino il più lungo è il nostro, di 2300 km, loro ne percorrono molti meno, circa mille. Allora, senta, ecco, diciamo a questo punto qualcosa del mezzo di questo veicolo. Che cosa immaginiamo, descrivicelo insomma in modo che possiamo immaginare com'è fatto. Emilia 3 è un'auto a quattro ruote, con due motori ruota sulle ruote posteriori, con una tipologia di costruzione in stile catamarano, per intenderci, con una tavola dove ci sono i pannelli solari ad alto rendimento, con 6 metri quadri di pannelli, e c'è solo il cupolino del pilota che spunta da questa tavola. Ecco, non è un'automobile dove si viaggia comodi, questo senz'altro. Assolutamente no. Sdraiati immagino anche. Essendo nella categoria Evolution, naturalmente, come hai detto, per evitare troppi appendici non aerodinamiche, il pilota è abbastanza sdraiato. Ecco, io vorrei sottolineare che cosa deve essere attraversare il deserto di Atacama senza condizionatore. Insomma, non vorrei essere nei panni del vostro pilota in quel momento. Ecco, e veniamo quindi allo scopo proprio di questo tipo di anche competizioni. Perché, insomma, basta fare quattro conti, non c'è abbastanza energia solare, come dire, il sole non brilla abbastanza potentemente per consentire a un'automobile di tipo commerciale di poter viaggiare solo con l'energia solare. Servirebbero estensioni di pannelli grandi come un campo da calcio più o meno per avere i 50 kW di un'auto, di un'utilitaria. Quindi uno dice va bene, ma allora un esercizio puramente così, un divertissement, o c'è un motivo per fare questo tipo di attività? Il motivo c'è, e principalmente serve per rendere anche partecipe le persone che non servono 1200 kg di vettura per spostarsi, per portare 70 kg di persone. Però principalmente l'autovettura pesa 200 kg. Col pilota arriva a 280, perché il pilota per regolamento deve pesare minimo 80 kg. Ha a disposizione 2,5 kW di potenza nei motori che gli permettono di raggiungere la velocità massima di 110 km/h. E naturalmente lo scopo della gara è ottimizzare l'autovettura, scoprire nuove tecnologie e nuove possibilità di applicazione delle tecnologie, come l'ottimizzazione dello sfruttamento dell'energia solare. Grazie ai pannelli e ai 6 metri quadri, più o meno noi abbiamo la potenza dei nostri motori. Quindi in condizioni ottimali, quando il sole è a picco, potete quasi andare, se potete andare veramente col sole. Esatto, assolutamente. Naturalmente abbiamo una batteria che ci consente di sfruttare gli scompensi dovuti alla non costante esposizione solare, e naturalmente dobbiamo anche ottimizzare gli attriti per evitare perdite di energia inutili. Certo, insomma, delle ruote, di tutte le parti meccaniche. Diciamo che siccome agite in un regime di estrema scarsità energetica e anche avete poca potenza a disposizione, questi 2,5 kW sono un ventesimo di quello che normalmente sta appunto su una piccola utilitaria, non parliamo di grandi automobili, dovete essere bravissimi a fare tutto il resto. E quindi dobbiamo ottimizzare molto. Esatto, tutti gli aspetti che portano a consumo di energia inutile devono essere sostanzialmente azzerati all'interno di questo veicolo, ed ecco a cosa serve, no? sperimentare proprio in queste nuove condizioni. Tecnologie. Ecco, invece immaginiamo di mettere su una delle auto normalmente in commercio qualche metro quadro di pannelli fotovoltaici. A che cosa potrebbero servire? Ad esempio alimentare il condizionatore, permettere che l'autovettura non sia completamente un forno quando si ritorna dentro. Dopo una giornata passata sotto il sole, dice, con questo fotovoltaico possiamo intanto almeno ricambiare l'aria. Ecco. Esatto, anche solo questo. Però principalmente può continuare ad alimentare la batteria e mantenerla più carica, aumentare la sua percentuale di carica, può permetterci anche di non attaccarci alla colonnina se abbiamo abbastanza metri quadri per ricaricare la batteria. Insomma, un'auto passa il 95% del tempo ferma, se nel frattempo ricarica le batterie non c'è niente di male. Tra l'altro, ormai un'automobile moderna, se ha una batteria scarica, bisogna aprirla col piede di porco, quindi anche solo evitare questo sarebbe, certo, sarebbe utile, no? Evitiamo di dover chiamare Car Attrezzi. Va bene, grazie Matteo Carpanelli. Grazie mille a voi. È tutto per questa sera, ci risentiamo domani. Buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.